Vlog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha pubblicato un rapporto che mette in guardia dai rischi legati all'eccessivo consumo di carni rosse lavorate. Dopo aver revisionato oltre 800 studi epidemiologici che indagavano l'associazione tra carni rosse e insorgenza di cancro in tutto il mondo, gli esperti dell'Agenzia dell'OMS hanno deciso di catalogare tra i cancerogeni certi le carni rosse lavorate, quelle salate, quelle essiccate, quelle fermentate, affumicate o trattate per migliorarne il sapore o la conservazione. Per queste esisterebbe una correlazione diretta con il tumore al colon, al pancreas e alla prostata negli uomini. Per gli altri tipi di tumore gli stessi alimenti sono stati classificati come probabilmente cancerogeni. Secondo gli esperti tutto sta nel tipo di dieta che si segue e dunque nella quantità e nella frequenza con la quale si consumano le carni rosse. Noi siamo collegati con Eugenio Del Toma, che è presidente onorario della... Le carni rosse fanno venire il cancro. Questa è la vulgata, questa è la sintesi. Oggi non ho strumenti, ma nemmeno voglia di chiamare esperti e farvi capire chi abbia mai ragione, l'Organizzazione Mondiale della Sanità o quelli che dicono che è un falso allarme, quelli che già immaginano andranno in piazza, si faranno una bistecca davanti a tutti, o quelli che questa mattina diranno: avete visto voi, sono anni che vi diciamo che non bisogna uccidere gli animali, il povero fratello maialino, la sorella capretta, il cugino coniglietto, ecco adesso vedete, punizione divina, si apre il cielo e un fulmine vi fulminerà, perché le carni sono cancerogene, cioè quelle rosse lavorate. Adesso ho fatta larga perché poi alla fine toccherà a tutti. Cos'è la carne rossa lavorata? Mi vengono in mente idee scurrili pensando a cosa può essere un pezzo di carne rossa lavorata che fa tanto male più all'anima che al corpo. Beh, questa mattina anche voi sarete andati a fare la spesa, avrete tirato fuori dal freezer la fettina congelata che stava lì da Pasqua passata, avrete dato mano alle vostre riserve da single, cioè il pacchettino con gli Wurstel ghiacciati e con l'olettino che è già diventato gelatinoso e siete pronti a mettervi nel padellino per farvi il vostro hot dog quotidiano. Avete aperto con lussuria la scatoletta di carne in scatola in gelatina, per quando vi ricordavate Walter Chiari che diceva sì, mentalmente buona, e tutti i bambini felici, contenti. Era una festa, un tripudio, perché c'era la carne in scatola che di mucca c'era soltanto quella disegnata sulla scatoletta. Beh, oggi cosa fate? Cosa fate? Mangiate tutti magro? Mangiate tutti pesce? Mangiate tutti verdurine? O alla faccia di chi ci vuol male, siete lì con la bella bistecca, la state rigirando sul barbecue e state per mangiarvela? Beh, io voglio capire esattamente come ha influito sulla vostra psicologia alimentare quotidiana la campagna sulle carni rosse lavorate che fanno tanto male. A tra poco. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Melog. Cronache meridiane. Signore e signori, da Panzano in Chianti, Dario Cecchini a difesa della ciccia, a difesa chiaramente della ciccia buona, ma anche a difesa degli allarmismi. Usiamo buon senso, stiamo attenti, cerchiamo cibi naturali, cibi buoni, ma pensiamo anche al godimento della vita, al piacere di stare tutti a una tavola, di cuocere una bella bistecca, di mangiare un bel piatto di bollito e, perché no, anche una fetta di salame. Quindi da Panzano, occhio, attenzione, ciccia buona, ma godiamoci la vita. Viva la ciccia a tutti! Viva la ciccia a tutti! Quante amiche in ascolto si sentiranno nel tripudio per questa frase, ma non vi illudete. Si parla della ciccia di mucca, della ciccia di maiale, della ciccia di tutti i cari maletti che questa mattina mi fanno compagnia e sono venuti nel mio studio per dire che loro sono d'accordo. Sono anni che lo dicono, che quelli che sono i risultati della ricerca dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è in realtà la chiave di salvezza delle loro esistenze. Ho letto ieri di una signora che è stata denunciata perché si era fermata a una bottiglia d'acqua e ha dato da bere ai poveri maiali assetati che andavano verso il patibolo in un camion di un grande industria che lavorava a maiali, e l'hanno denunciata perché non si toccano i maiali che vengono trasportati. Beh, questa mattina come la mettiamo? 800 24 00 24. A parte tutto, siete veramente preoccupati? Perché sì, perché quello che si legge è spaventoso. Davanti un disegno con l'amico maialino la sorella mucca, il fratello cavallo, la cuginetta gallina, e da ognuno viene fuori l'ira di Dio di mortalità, frattaglie derivate dalla carne, per esempio sangue, il sanguinaccio è la cosa fa peggio di tutti. Un umbro come me, che era pronto, che appena scannato il maiale andavano i bambini sotto con la teglia per prendere il sangue caldo e metterlo nel forno e farci il sanguinaccio, che era buonissimo, sanno che hanno mangiato un sacco di roba cancerosa. Ma non voglio prendere il giro i dati, voglio capire questa mattina come voi vi siete comportati. Uscite di casa i primi umarelle, che alle 5 già sono in giro, avranno visto davanti alle edicole la pagina dei giornali con la notizia, hanno detto: che faccio? Vado al mercato, la compro la fettina, lo compro il bollito, lo compro l'ossobuco o lascio perdere. Beh, cominciamo la nostra inchiesta sentendo un personaggio questa mattina, come tutti i macellai d'Italia questa mattina avrà sicuramente visto un pericoloso ribasso dei propri affari. Manfredo il Lampredottore, buongiorno. Ciao Gianluca, ciao a tutti. Come vanno gli affari oggi? Ma guarda, qui per il momento non c'è stato nessun tipo di flessione da questo punto di vista, perché bene o male, sai, chi mangia le frattaglie, lampredotto e trippa e cose varie non sta dietro. Ma tu cos'hai, un carrettino che vende la trippa e le frattaglie per strada? Sì, esatto, c'ho una specie, io lo chiamo il loculo perché è piccino picciò, in cui si cuoce il lampredotto. Ma che è, spiega bene, perché chi non è toscano il lampredotto non sa che... Ok, il lampredotto è il vero stomaco del bovino. L'apparato del bovino è composto da tre prestomaci, che sono le trippe, e uno stomaco vero e proprio, che è l'abomaso o abomaso, non ho mai capito dove è quello che usi te. Esatto, è l'abomaso o abomaso, che fa lo vero stomaco. Ma che si fa? Si fa pezzi e si mette nel panino? Si cuoce con gli odori, si mette nel panino in porzione, se no si può fare il sugo con gli spinaci, con i porri, con i carciofi. Tu dove le vendi le frattaglie? In che punto esatto di Firenze? Sono davanti all'entrata dell'ospedale di Careggi, per questo il nome Lampredottore, perché così perlomeno siamo... Cioè, così se gli viene immediatamente qualcosa vanno all'ospedale, com'è il problema? Esatto. Sì, io do anche consulenze mediche... Un panino, scusa un secondo. Sì, sta servendo il panino questo. No, fa sì, con esatto. Calma, chiamo Federico. No, vai tranquillo. Come, scusa? Che una signora... Chiedi alla signora se ha paura questa mattina, che ha letto i giornali. Hai sentito, sono a Radio 24, hai sentito che l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che la carne rossa fa male. L'hai sentita questa notizia? No, lei non l'ha sentita. Noi abbiamo una confidenza nella capacità, nella volontà e nella reale efficienza degli italiani a leggere i giornali, ma li leggeranno la sera quando tornano a casa. Ancora sì. Ce lo diciamo fra noi, secondo me gli italiani ancora manco hanno reagito. Fermo un attimo, riempi il panino perché mi servi come consulente. Maria Luisa, buongiorno. Buongiorno. Io volevo fare solamente una una riflessione. Innanzitutto l'allarme è così fatto, è decenni che la scienza ci dice che non è poi tanto la carne rossa quanto gli insaccati, quanto i componenti poi per conservare che mettono all'interno. Sì, ma adesso non parliamo di scienza, non siamo scienziati, la scienza la lasciamo ai scienziati. Lei questa mattina è titubante nel mettere l'insaccato in tavola o la bistecca? Sì. Sicuramente, perché dopo questa notizia, che ovviamente ha avuto una certa ripercussione, senta i maiali come sono felici. Adesso sarò più attenta, perché ovviamente comunque... Cos'è che non farà mai più? Maria Luisa, fino al cessato allarme, cos'è che non farà mai più quando andrà a fare la spesa? Mi faccia capire, voglio capire come incide nel paniere della massaia poi l'allarme. Cos'è che non comprerà mai più? Il cotechino, il wurstel, la carne macinata? Cos'è che la prima cosa che le farà paura comprare? È gli insaccati. Gli insaccati. Gli insaccati in generale, che possono essere appunto... Salame, cotechino, capocollo, esatto, lonza. Esatto, sì. Vabbè, l'insaccato è il nemico pubblico numero uno, almeno quello che emerge dal primo giro di informazione dei nostri ascoltatori. Andrea. Buongiorno. Cosa farà lei questa mattina dopo che ha saputo la notizia? Sì, io sicuramente, mangiando spesso in giro, viaggio molto e sicuramente cercherò di eliminare completamente gli insaccati. E di conseguenza... Ma tutti i panini dell'autogrill ce l'hai insaccato dentro? Eh sì, infatti, bisognerebbe eliminare tutti i panini, eliminerò tutti i panini, mi organizzerò un pochettino meglio con una schiscetta o... E la noce di prosciutto al pepe che sta fanno, all'uscita di ogni altro... Come fanno in Asia, mangerò un paio di banane per togliermi la fame. Le banane, mica hai detto delle banane poi, che non faccio male. Comunque va bene, abbiamo capito che... Sentiamo Federico, comincia. Sì, buongiorno a tutti. Sì. Io sono cristiano. E quindi? Già da più di 2000 anni il Signore diceva che, di mangiare la carne con parsimonia. Vabbè, dice, scusate, non voglio dire, io nei vaghi ricordi, questa è la mia carne, cioè tutto il cristianesimo è basato sul mangiare la carne, scusi. Io non mangiavo, cioè già carne. Tutto il simbolismo cristianesimo nel mangiare la carne, scusi. Sì, l'agnello di Dio, tutte queste, l'agnello gli si sgozzava e si mangiava, non è che stava lì per giocare come Heidi nei monti. Con parsimonia, per cui non cambia nulla. Se uno era già abituato a mangiare con parsimonia, cioè rendendo grazie a Dio, non vedo quale sia il problema. Purtroppo queste malattie, io premetto che sono celiaco, queste malattie sono venute proprio dal fatto di un eccessivo consumo, siamo entrati nel consumismo e questo è un po' la rovina un po' di tutto. Però se uno mangia nella giusta quantità, ciò che abbiamo bisogno e non fino a sgozzare, cioè fino a ingozzarci. Quindi lei dice non è tanto che fa male perché si mangia troppa carne, una volta la fettina era una volta a settimana, esatto. Adesso tutti i giorni carne e quindi naturalmente c'è questo problema. Manfredo, sei riuscito a vendere il panino? Sì, ciao, buongiorno. Ecco, sì, di nuovo. Io vedo che il tuo pubblico è disinformato su questa vicenda, non si pone il problema. Ma sai, già chi mangia frattaglie, diciamo, è un po' più aperto a questi discorsi. Cioè, chi mangia frattaglie è l'ultimo grado dell'alimentazione, onestamente. Sì, siamo gli animali dell'umanità proprio. Sì, le bestie siamo proprio. La sentina dell'essere umano. Guarda, io vengo da una regione in cui si facevano la pasta asciutta con le regaglie del pollo, che è l'intestino del pollo, capito? Sì. E poi i più raffinati dicevano che non devono nemmeno pulirle tanto perché siano buone, capito? Adesso c'è anche il contenuto. Noi si fanno le budellina di vitello che sono state liberate da poco dalla mucca pazza, che quelle buone sono ancora con la tonsolo dentro, come la pagliata romana. A Perugia dicono con la merda è tutto, scusate, l'ho detto così, che non è proprio il massimo. Però i veri raffinati si mangiano l'intestino senza manco pulirlo tanto bene, quindi figurati, ci sono abituato. Ma nel disegnino che oggi ho davanti della notizia c'è il cavallino, c'è la gallinella, c'è il maialino, ma dov'è il manzo? C'è proprio una freccetta che indica la panza con scritto frattaglie, quindi tu dovrai mettere il teschietto sui tuoi panini o no? Ma più o meno sì, ma neanche no, ma senti, secondo me Gianluca c'è una gran presa, se posso dare. Ma è chiaro, oggi non c'hanno niente da dire se si parla di questo. No, ma non con te, in generale. Allora, si fa il problema della carne rossa. Allora, prima di tutto si mangia tutti troppa carne, sono io il primo a dirlo e il primo a mangiarla. Però se si pensa, se te ti ricordi una trentina d'anni fa ci fu un problema negli acquedotti della pianura padana per la trazina. Sì, certo, la trazina, sicuro. Ecco, certo. Spostarono la virgola e di centrato gli acquedotti ritornarono in regola. Cioè, nel senso, queste cose che fa l'OMS mi sembrano veramente queste chiacchiere per nulla. No, però questa volta è circostanziata, perché dire... fa più male delle sigarette, fa più male dell'inquinamento da sostanze chimiche, è abbastanza terrificante. Che le sigarette facciano male possiamo anche, ci crediamo tutti naturalmente, ma c'è una campagna antifumo potentissima, su ogni pacchetto di sigarette c'è il teschietto, adesso addirittura fanno vedere le sbudella sbudellate di tutti quelli malati da troppo fumo, polmoni infradiciati, fanno vedere di tutto. Ma ti rendi conto il macellaio che dovrà mettere sotto le foto dall'obitorio quando vende la carne? Non sarà bellissimo, secondo me, ci sarà un problema. Sì, ci sarà un problema, ma è una di quelle cose, secondo me, che alla fine non lascerà un po' il tempo che trova. Cioè, nel senso, come al solito, per 20 giorni, un mese se ne parlerà e poi dopo si ricomincerà come prima. Quindi il lampredottore, nella sua saggezza, dice è una transeunte allarme lanciato per non far apprezzare la gente, si avvicina a Natale, quindi chi già comincia a congelare il cappone o il tacchino pensando di risparmiare forse lo lascerà ancora un po' razzolare nell'aia, nel cortile o nell'allevamento di tacchini, perché vorrà capire bene cosa funziona. Ciao Manfredo, ci sentiamo tra un istante. 800 24 00 24, continuate a chiamare. Melog, cronache meridiane. dove finisce la poltiglia di carne che avete visto? Dentro Wuster, crocchette, cotolette, cordon bleu e talvolta anche dentro il ripieno dei tortellini che troviamo in vendita al supermercato. In etichetta troviamo scritto carni separate meccanicamente. Le carni separate meccanicamente vengono ricavate da quelle che sono le carcasse, quindi normalmente dovrebbero essere degli scarti, no, industriali, che invece per ridurre questa porzione di scarto vengono ancora rielaborate per poterne estrarre tutto quello che rimane di fatto ancora attaccato. Si tratta in pratica di un sottoprodotto della lavorazione industriale che consente di non buttare nulla. Vengono anche triturate in parte le ossa, le cartilagini, sicuramente. Una sorta di grosso tritacarne ne fa un impasto che poi è molto malleabile ed utile. Quindi ogni tanto presta. Quando mi voglio far male guardo questi documentari, fanno vedere come sono fatti i wurstel, i medaglioni, quelle cosettine a forma di animaletto che i bambini fanno impazzire, le cotolette impanate già fatte che vendono, le spinacine, queste cose qua, è un pastone, ci buttano dentro le galline intere con le penne tutto, gli zampetti di maiale, la coda di mucca, i teschi di cavallo, si trita tutto, viene fuori una bella pastina rosa, che è tanto buona, quando mangi il wurstel è buono, te lo metti lì sulla graticola, è buonissimo, però dentro c'è le peggiori schifezze. Certo, le schifezze frullate, pastorizzate, bollite, sembra che non facciano più male, ma forse fanno male. Mi diverte leggere i messaggi delle persone di quello che stanno scrivendo. Il più divertente è quello che scrive un signore, dice: è la lobby islamica, ci sta facendo togliere la carne come sono riusciti in Francia. Quindi c'è dietro un complottismo. Poi naturalmente ci sono anche le multinazionali, non so cosa abbiano in mente in questo momento, forse di incrementare il consumo di pesce, non lo so, non ho idea. Molti chiedono ci voglia l'etichetta sulla bistecca, questo sembra l'idea più felice che mi è venuta di istinto, è quella di mettere foto di obitorio, foto di necroscopie o foto di luoghi dove spaccano cadaveri davanti alle macellerie come obbligo, quindi chi deve comprare la coratella prima deve vedere una bella autopsia per capire cosa potrebbe accadergli con la coratella. Ma non so chi faccia scopo, a chi giovi questo, se non ai cari animaletti che ho qui intorno e stanno felici oggi, ma hanno invaso lo studio e dicono che bello, è la nostra festa, nessuno ci mangerà più perché finalmente hanno capito che facciamo venire il cancro. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, il suo punto di vista? Il mio punto di vista è, volevo rincuorarlo Nicoletti, lei quando vuole mangiare qualcosa di sano venga a casa mia. Dove il sta maiale, lei? Il maiale lo alleviamo, ce lo uccidiamo e ce lo mangiamo. Dove sta lei? No, provincia di Bergamo. Quando si scanna? Gennaio? No, facciamo uno come arriva il primo freddo adesso a novembre. Adesso è il momento, con la prima nebbia si fa il sacrificio. Esatto, vada tranquillo che non ci sono conservanti, non c'è niente. E cosa gli dà da mangiare maiali lei? Farina, orzo, mais macinato, tutta roba di nostra produzione, assolutamente niente mangimi, anche perché noi non vendiamo assolutamente, ce lo mangiamo noi. Ma che ci mette nei prosciutti per conservarli? No, io i prosciutti non li faccio, noi facciamo assolutamente niente, salami, cotechini, pancette, coppe, assolutamente niente. Scusa, ma con le cianche del maiale che ci fa, con le cosce del maiale? No, noi il prosciutto non lo facciamo perché non abbiamo il posto, logicamente. Ah, lo dà qualcun altro o lo fa pezzi? No, lo tritiamo. Ah, trita tutto e fa tutto, però è un peccato, scusi. Ma noi non abbiamo il posto per conservarlo, quindi invece pancette, coppe, compagnia bella, abbiamo la cantina buona, si mette in cantina. Due volte all'anno il maiale, una o due volte all'anno si uccide il toro, sempre di nostra produzione. E col toro cosa ci fate? Povero toro. Il toro lo portiamo al macello, lo uccidiamo, lo facciamo a pezzi e poi ci mette nel freezer. Lo ammazzate quando non gli tira più al toro, perché il toro serve, no? No, ma invece non è maschio, è anche femmina, non abbiamo problemi. Ah, allora è una mucca, non è un toro, c'è una differenza. No, è una vitella. Ah, c'è un braccio di differenza fra un toro e una vitella. Però è molto più tenero la scottona del toro. Senta, ma le carni lavorate che sono allora? Mi fa capire, lei che è esperto. Ah, io non ne ho la più pallida idea perché non ne mangio. Guardi, avendo la fortuna di avere una piccola azienda agricola e siamo a conduzione familiare, noi siamo un'azienda cerealicola, quindi tutto quello che alleviamo serve per mangiare a noi. Lei ha sentito dire in queste ore, qualcuno l'ha detto adesso che succederà così, cioè il panico l'ha sentito? Sì, adesso si comincia a sentire, ma è inutile che facciamo finta di... Ma gli hanno telefonato, clienti, cosa è successo? No, noi c'è quella volta che viene qualcuno che mi dice adesso verranno più spesso a mangiare pane e salame, sono contento. Va bene, in bocca al lupo. Margherita, quando... buongiorno. Margherita. Buongiorno Nicolini, buongiorno. Sì, Nicolini, perché mi chiama Nicolini? Margherita. È umiliante se vedere il nome storpiato. Come nei film di Totò. Scusami. Fantozzi, sembra che... Fantozzi che hanno Fantocci. Scusa. La prego, Margherita. Scusa. Lo so. Sto soffrendo, prego. No, no, niente, scusa. Senta, anche il maiale sta grugnendo dal... Dai, stai buonino, dai, stai buono, Jimmy. No, e Margherita si è sbagliata, lo so, è emozionata. Mi sono sbagliata, scusa. Allora, dai. E dire che, guarda, che tutti i giorni ti sento con tanto interesse. Sì, certo, pensa un po' se non mi sentivi, dai. Allora, volevo semplicemente dire che ci hanno terrorizzato per anni con la mucca pazza, quindi che tutti non potevano mangiare la fiorentina perché ci ammalavamo tutti di pazzie, tutte queste cose. Adesso è un razzo delle carni, per me sono tutte cavolate. E quindi lei continuerà a mangiare carne cruda rossa? Tranquillamente. E a lavorarla tranquillamente? Il mio papà, quando andava dal dottore che gli diceva non devi mangiare questo, non devi bere questo, sì, devi prendere questo per guarire, e lui diceva sempre, ma cosa vuoi, farmi morire guarito? Vabbè, questi sono gli eccessi, ognuno c'ha poi il suo modo, questi qua dicono, io ho fumato 2000 sigarette al giorno, ho bevuto come un matto, sono andato con le peggiori prostitute del mondo e sto sano come un pesce. C'è sempre un nonno invulnerabile, un nonno Superman in tutte le famiglie, e mio nonno, figurati, fino a 90 anni era sul pezzo, beveva, magnava, è stato bene, e fumava, e col sigaro toscano in bocca è morto, se poi vorrei vedesti i nonni, eterni. Alessandro, buongiorno. Buongiorno Gianluca Nicoletti. Buongiorno. Ascolta, io sono un vicino al vegano come oggi è la tua festa, oggi avevi ragione te. Guarda, no, allora, sinceramente quello che penso è che a me gli allarmismi in generale non mi piacciono. Senti, ma ti saluta. Mi piace, sì, non adoro neanche però tutte le reazioni orgogliose. Mi piacerebbe che ci si informasse, cioè mi piacerebbe che questa notizia fosse uno stimolo affinché alcune persone si pongano la domanda di che cosa mangiano, e soprattutto prima sentivo quello spot del godersi la vita. Io sono anni che se la gode lo stesso, dici? Io me la godo anche di più, e sinceramente penso che ormai si sia fatta passare anche un po' l'idea che il cibo sia un po' un antidepressivo. Sì, oggi, onestamente, in questo ha ragione Alessandro, si parla solo di mangiare. Il cibo, ecco. Cioè, oggi con chiunque esci parli solo di mangiare. Ti vedi con una persona, andiamo a cena, e a cena che fai? Mentre mangi pensi, parli degli altri posti fantastici in cui andrai a mangiare. Io sono una persona che mangia poco, mi sono mangiato un crackers al riso e ci vado avanti fino a stasera, ma non perché sono parco o faccio scelte, mi sono stufato, mangio quando ho voglia, quando mi diverte, quando campo bene lo stesso, non ho il culto del cibo. Comunque, lei ha detto cose molto sagge, io oggi perché rido di questa cosa qua? Perché un allarme immediato, improvviso, così potente, su tutte le pagine dei giornali, mi fa sorridere. Il problema vero, come ha detto giustamente lei, sarebbe una maggiore attenzione a quello che si mangia. Ma mi diranno tutti, tanto non c'è tempo, chi ha tempo, abbiamo fretta, lo so, anche la signora con la falce ha fretta quando ci viene a trovare e nel momento che meno ce l'aspettiamo. Angelo, buongiorno. Buongiorno. Io, niente, volevo solo dire che continuerò a mangiare i miei salami. Ma tutti lo faranno, a parte oggi, domani, dopodomani. Esatto, ma proprio godrò ancora di più nel mangiare, perché alla fine sono sicuro che le mie endorfine per i piaceri della vita uccideranno quelle brutte cellule tumorali che... Sì, vabbè, guardi, di tumori muoiono anche gli anacoreti, anche i mistici, anche gli anorestici, cioè succede a tutti, quindi... Certo, stare attenti è meglio, ma a me questo allarme, la carne uccide quanto le sigarette, onestamente oggi mi fa un po' riflettere, quindi non l'ho presa sul serio la notizia, però mi piace sentire come la pensano le persone come me, quelli che la leggono sui giornali, non vanno a cercare in internet le informazioni della scienza alternativa, ma dico, ma possibile che fino a ieri andava tutto bene e oggi improvvisamente sulla bistecca bisogna metterci il teschio sopra. Mario, buongiorno. Buongiorno. Sì. Parlo per esperienza diretta perché ho fatto un esame per ingegneria chimica che si chiama ingegneria sanitaria ambientale, praticamente riguarda tutto quello che mangiamo. E cosa dice? Ricordo al tempo le cose più terribili erano i dadi da brodo, Beh, quello certo. E i würstel, perché chiaramente ne hanno fatti. Però, insomma, come uomo che fa la spesa, compravo bellissime bistecche, sono di Firenze, bellissime bistecche alla grande distribuzione. Il giorno allora, lei che esperto, scusa, che ingegnere della carne tritata, che è la carne lavorata, mi spiega? No, no, io non sono esperto di carni lavorate, ho fatto però, di almeno di... che è, ce lo spieghi, perché io carne lavorata è la carne no, tritata. Io volevo andare ancora semplice, cioè compravo bellissime bistecche e il giorno dopo ci dovevo fare le polpette perché erano dure come il muro. Anche chiesi al mio macellaio, ma io compro la bistecca, ora non faccio i nomi, alla grande distribuzione, che ci devo fare? La devo far frollare? No, lui mi disse semplicemente, non comprarla alla grande distribuzione, mangiai la sua, la prima, e il grasso si scioglieva, invece se la prendi da un'altra parte, il grasso diventa una specie di corteccia. E quello che vuol dire? Perché la roba che danno da mangiare alle mucche, da cosa dipende? Allora, io sono stato molto tempo negli Stati Uniti, hanno una carne magnifica perché hanno i pascoli, è un po' come mangiare l'hamburger di Mac a New York o mangiarlo qua. Qua non è la stessa cosa, insomma la carne ne va sempre mangiata molto poca, però insomma non bisogna fare, secondo me questa è una notizia che è venuta fuori un po' come il timore del Papa, insomma. Ah, ecco. Perché io guardo le altre TV, non ne sta parlando nessuno in Europa di questa cosa. In Italia sa, c'è questo fenomeno. I grandi giornali si occhieggiano di finestra contro finestra. Voglio dire, sono 30 anni che... Con cosa aprite oggi? Con la bistecca maledetta che uccide. Allora anche noi dobbiamo aprire. Non è vero. E poi va a catena e alla fine arrivo io a mezzogiorno. Che se devo parlare di qualcosa di cui parlano tutti, devo parlare della carne maledetta. Fermo un attimo. 800 24 0024. Tra un istante. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta. Melog. Cronache meridiane. I wurstel, i salami, salumi, c'è il sale dentro, il sale è un veleno, il sale. Che brutti salami, una carne tritata, cos'è una carne macinata? Io vi ho già parlato del ragù, Dio che roba, cari amici. Gli allevatori di bestiame tengono famiglia, capito? Gli allevatori di bestiame, i produttori di insaccati tristi e via di seguito. C'hanno loro, anche loro hanno una moglie, una figlia e dei figli, i figli vogliono andare all'università. E se si rendono meno insaccati tristi, se si rendono meno carne rosse. C'è sempre questo dietrologia, ma anche i coltivatori di cetrioli hanno famiglia, cioè tutti hanno famiglia, chiunque produce qualcosa. Non è che c'è la lobby dei macellai che è più forte della lobby degli ortolani, quindi mangiamo più carne. Poi un altro furbacchione mi scrive, Nicoletti, non lo dicono i giornali, lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E allora quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice di vaccinare, tutti pronti. Quando dice che la carne è cancerogena, mille scuse. Chissà come mai. Ecco, trovate il complotto, che grande vecchio che c'è dietro questa sorta di ambiguità nel mio comportarmi. Matteo, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Volevo fare una precisazione. Non è la carne in sé che viene criticata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, sì, bensì gli insaccati e la carne lavorata. Oh, me lo spiega, perché io devo capire veramente cos'è la carne lavorata. Carne lavorata, un esempio, è la carne affumicata. Ma lei è del mestiere, diciamo, lei ha studiato? Più o meno, nel senso che io vendo macchine confezionatrici. Quindi lei è quello che fa le macchine per lavorare la carne? Per lavorare la carne. Per confezionare la carne. Allora, spieghi bene cos'è la carne lavorata, così vediamo. La carne lavorata si intende appunto tutti quei processi che vanno ad alterare il sapore, l'odore. Mi faccio un esempio, Carne affumicata, la pancetta affumicata viene per esempio resa affumicata non col fumo vero e proprio come si faceva una volta. A casa mia quando ero piccolo si affumicava la pancetta. Esatto, adesso invece si usano delle sostanze. Ah, è finto fumo. Il sapore di affumicato. Quindi una cosa chimica. Sono, esatto, una roba. Adesso non so se si può generalizzare. No, vabbè, dica. Naturale. Beh, che roba è? La questione è che. C'è uno spray del fumo che uno da fuori se lo mette addosso sa di affumicato. Esatto, è una roba del genere. E quindi sono queste le sostanze che vengono criticate. Beh, interessante per l'uso, per l'abuso che come negli insaccati, per esempio, invece sono tutti conservanti, non è la carne in sé. E questa è la precisazione che va fatta. Oh, nelle macchine che, diciamo, come funziona? Uno mette dentro la zampa di cavallo e cosa viene fuori? Un würstel? Allora, queste sono le macchine di processo e io non le tratto, quindi non so. Però sa più o meno che è roba dei concorrenti. Sì, in ogni caso sono carni lavorate e bisogna stare attenti appunto a quello che, bisogna, che mettono dentro, quindi leggere bene le etichette. Sono conservanti. Io ho visto un filmato che buttano dentro le galline vive dentro un pastone e esce fuori il wurstel. Può essere. Però il messaggio è che se si compra la carne dal macellaio una volta ogni tanto non fa sicuramente male. Questo è il messaggio che secondo me. Quindi non comprare le cose confezionate, che lì dentro ci può essere di tutto. No, non confezionate, le cose non lavorate. Beh, tutto quello, io quando avevo i bambini più piccoli, i ragazzi più quando piccoli. Quando va al supermercato vede la carne rossa, il pezzo di carne rossa confezionato in una vaschetta, quella è semplicemente l'aggiunta di un'atmosfera modificata per far sì che la shelf life, la vita di scaffale del prodotto, si allunghi. Non diventi verde come normalmente succede alla carne. Quello non fa assolutamente male al prodotto. Quello che fa male al prodotto sono le aggiunte di sostanze durante la lavorazione della carne. Non il confezionamento è tutto un'altra cosa. Ma le sostanze cosa. Sono per farla sentire più saporita, che noi siamo abituati, sennò chissà di esatto, che sapore. Esatto. Che c'ha quel buon saporino. Questo è il messaggio. Sì, perché se uno oggi prende una gallina, gli tira il collo e se la mette in padella, non c'ha il sapore del petto di pollo che si compra già con l'impanatura, con dentro lo spinacino così, che è buonissimo, onestamente. Prende una gallina, se la mette in padella, il petto di gallina è un'altra cosa. Come mai? Perché il sapore è quello. Oggi il sapore è come se uno si abitua sempre a un tasso più alto di sapidità. Quindi non siamo più abituati a mangiare le cose per il loro vero sapore. Questo ci spiega il nostro ascoltatore. Giacomo. Sì, salve Nicoletti, ottima trasmissione. E mi allaccio esattamente a quello che diceva poc'anzi il dottore Matteo. Matteo giustamente sottolinea che non è la carne in sé. Per esempio negli insaccati sono principalmente i nitriti di sodio a creare difficoltà. E a cosa servono quelli? Per conservarla? I nitriti di sodio sostanzialmente è un sale, quindi serve, è acido nitroso, praticamente si presenta solubile, viene inserito, dà un sapore e aiuta anche la conservazione. Gli antichi conservavano le carni con il sale, appunto sì. Sotto sale. Non i prosciutti si ricoprivano di pepe, di sale, era una cosa... Esatto. I nitriti, il sale, come si sa, appunto, non è una sostanza che fa bene. Questo inserito negli insaccati crea delle difficoltà nella digestione. E le bruciature, le dici, le bruciature cosa sono? Le bruciature altrettanto, era uscito ancora anni fa, non so se si ricorda, quel problema della pizza con le bruciature, che le bruciature della pizza erano cancerogene. Tutto ciò che è bruciatura, infatti ha parlato di affumicatura e ha fatto benissimo il signor Matteo, e sono cancerogene, e essendo cancerogene le bruciature alla parità dell'alcol. Ma dove sono bruciate le carni che si comprano al supermercato? Beh, la affumicatura appunto come è già, spiegato, è già un processo, sì. E l'ha già spiegata. La carne invece è fatta alla griglia, per esempio, e vengono create delle ustioni, delle bruciature sulla carne, e quelle bruciature che si creano sono delle bruciature. Ma se io compro, io vado in montagna e vado spesso, c'è il macellaio che so che la bestia l'ha ammazzata lui 3 giorni prima, mi compro le bistecche o le salsicce e me vado a fare alla griglia, rischio qualcosa? Lei non rischia di per sé nella carne, per dire se si fa una tartare di carne cruda non avrebbe questo problema, se invece se la fa alla griglia e crea delle bruciature, sono le bruciature in sé a creare dei problemi. Io lo farò una volta l'anno, con questo non credo che mi comprometterò l'esistenza, perché guardi, cucinare la carne da solo in mezzo a un bosco facendosi il focherello in sicurezza e mangiarsela lì per lì, le giuro, è uno dei più grandi piaceri della vita. Forse una volta l'anno vale la pena il rischio. Tranquillo, tranquillo, te ti mangio dopo Natale. Arrivederci alla prossima, grazie.